mai, puoi riposarti un po', si spegne la terra e tu fermi il tuo vecchio aratro immobile, sotto le stelle, sai, vorrei riposarmi anch'io con la serenità che porti sul viso tuo e semini dentro i desideri miei di assomigliarti un po', ma non potrei vivere come te. Legna, il fuoco che si impegna a consumare il freddo e questa umidità, c'è da mangiare polente e zanzare che hanno già capito che aria tira, il frigo vuoto sembra un carro armato che si mette in moto e forse spazzerà, mille legioni, veggenti e santoni che hanno già predetto che aria tirerà. Contadino, la tua schiena si inarcherà sotto noi pesanti topi di città. Ma sai, fratello, quel fardello forse non ti spezzerà se io che sono troppo topo di città racconterò di te. Buia la sera ormai, puoi riposarti un po', si spegne la terra e tu fermi il tuo vecchio cuore mobile, sotto le stelle amore nobile, fermi il tuo vecchio cuore mobile, sotto le stelle. Forse non ti spezzerà se io che sono troppo.